bolingo, e bolingo. I, lisano, e lisano, e lisano. E, bisengo, e bisengo, e bisengo. Ah, bisengo, ya la joie. Bolingo, e bolingo, e bolingo. Ah, lisano, e lisano, e lisano. I, bisengo, e bisengo, e bisengo. E, bisengo, ya la joie. Bolingo, e bolingo, ah ah, lisano, e lisano, e lisano, I, bisengo, e bisengo, e bisengo, bisengo, ya la joie. Bolingo, e bolingo, e bolingo, ah ah, lisano, e lisano, e lisano, I, bisengo, e bisengo, e bisengo, bisengo, ya la joie, chauffe. Thank you. Bisengo, bisengo, bisengo, bisengo ya la joie.